Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuovo sopralluogo dei carabinieri nella villetta di Gemona, teatro del brutale omicidio di Alessandro Venier, per il quale sono accusate la madre e la compagna Meilin. Messo in salvo da un vicino un uomo che era svenuto dopo aver respirato fumo nel tentativo di spegnere un incendio di una scatola di derivazione elettrica nello scantinato di una villetta a Gemona del Friuli. Aveva ricattato un ragazzo minacciandolo di inviare alla polizia locale di Trieste un messaggio minatorio a suo nome se non avesse pagato subito una considerevole somma. È stato denunciato dalla madre del giovane. La tempesta di martedì scorso, che ha sferzato la regione con forte vento, temporali e grandine, ha creato non pochi danni al settore agricolo e in particolare ai vigneti collinari del Disontino, molti dei quali andati distrutti. A Trieste la cerimonia di posa della prima pietra dell'Hydrogen Hub, il nuovo impianto dedicato alla produzione di idrogeno verde che sorgerà nell'area adiacente al termovalorizzatore. Seconda giornata di Pordenone Legge con diversi appuntamenti e incontri in programma. Tra questi quello con Gino Cecchettin, che a margine del festival ha commentato l'aggressione subita nel carcere di Verona dall'assassino della figlia Giulia. Le 12:31 minuti e 30 secondi in questo istante, questi titoli ancora. Un buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani, che condurranno insieme anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 18 settembre. Un'edizione che apriamo con la cronaca perché è in corso il nuovo sopralluogo dei carabinieri nella villetta di Gemona, teatro del brutale omicidio di Alessandro Venier, per il quale sono accusate la madre e la compagna Meilin. Sono le 10 del mattino quando nella villetta di Via dei Lotti a Gemona, in cui si è consumato l'omicidio del 35enne Alessandro Venier, entrano gli artificieri aggregati al nucleo investigativo dei carabinieri di Udine. Per la giornata odierna la procura ha disposto nuovi accertamenti tecnici sulla scena del crimine, ancora in corso al momento di andare in onda. I RIS di Parma avevano ispezionato la casa il 12 agosto scorso. I militari del comando friulano sono alla ricerca di tracce biologiche che possano confermare o smentire nuove piste di indagine emerse dopo gli accertamenti di RIS. Gli artificieri hanno rinvenuto nella casa residuati bellici della Prima Guerra Mondiale, inerti o svuotati. La vittima era un appassionato collezionista. Controllato anche il garage dove era stato riposto il bidone contenente la calce e il cadavere di Alessandro fatto a pezzi. Una volta bonificate l'abitazione hanno indossato le tute di protezione bianche e assieme agli investigatori sono entrati gli avvocati di Lorena Venier, Alice e Paolo Bevilacqua, che hanno assunto la difesa della donna, Federica Tosel e Francesco De Carlo, i legali di Meilin Castro Monsalvo, con loro anche il consulente criminologo Edoardo Genovese. Gli avvocati sono stati convocati dalla procura per un accertamento tecnico irripetibile e sono stati autorizzati dal magistrato ad accedere all'abitazione. In attesa del referto con l'esito dell'autopsia resta il mistero su cosa abbia causato effettivamente la morte di Venier. Una consulenza di parte escluderebbe tracce di strangolamento o di asfissia. Lorena aveva detto nella sua confessione che dopo il sonnifero e le iniezioni di insulina il figlio era stato soffocato prima con un cuscino e poi con i lacci di scarpone tirati prima dalla sola Meilin, poi nella fase finale anche da lei. Per stabilire con certezza le cause del decesso saranno fondamentali gli esami tossicologici. Intanto qui a Gemona gli accertamenti vanno avanti, vi daremo conto degli esiti nelle prossime edizioni del giornale radio e del telegiornale. Gemona, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo ha respirato fumo ed è svenuto nel tentativo di spegnere un incendio di una scatola di derivazione elettrica nello scantinato di una villetta. È accaduto poco prima delle 21 di ieri a Gemona del Friuli, in via San Biagio. L'uomo è il genero del proprietario della villetta, in quel momento assente. A metterlo in salvo un vicino sceso nello scantinato proteggendosi con un elmetto da lavoro e una mascherina antipolvere, che è riuscito a trascinarlo all'esterno e ad affidarlo ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona. L'incendio ha provocato tanto fumo prodotto dalla combustione della plastica, ma nessun danno all'abitazione. E una persona è stata denunciata all'autorità giudiziaria ed è in attesa di processo per tentata estorsione, procurato allarme, sostituzione di persona e calunnia, in seguito alla denuncia presentata lo scorso anno da una donna che si era rivolta alla polizia locale di Trieste per denunciare la tentata estorsione via email ai danni di suo figlio. Quest'ultimo aveva infatti ricevuto un'email da ignoti che gli comunicavano di aver hackerato la sua casella e che avrebbero inviato alla polizia locale un messaggio minatorio a suo nome se non avesse pagato subito una considerevole somma. Gli hacker avevano poi messo in atto quanto promesso, inviando alla casella istituzionale della polizia locale un'email che annunciava la presenza di due bombe in città e la richiesta di 100.000 euro per non farle esplodere. Verificata l'inconsistenza della minaccia, gli investigatori avevano avviato l'indagine per rintracciare i possibili responsabili sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, partendo dall'analisi dell'email sulla casella del giovane. Tracciando nel percorso attraverso un reticolo di server volti a nascondere l'identità del mittente, tra questi uno era geolocalizzato in Medio Oriente, erano riusciti a identificare il presunto responsabile. Ulteriori elementi a carico dell'uomo sono stati poi raccolti dagli investigatori in una fase successiva, analizzando nel dettaglio i suoi profili social. E ora torniamo alla tempesta di martedì scorso che ha sferzato la regione con forte vento, temporali e grandine, creando non pochi danni al settore agricolo, in particolare ai vigneti collinari, molti dei quali sono andati distrutti. Siamo andati a Mariano del Friuli. L'aspetto delle viti è come a dicembre, ma il sole di fine estate scotta. La grandine e il vento di martedì hanno spazzato parte della Doc Isonzo, Mariano del Friuli, ma anche Romans, Medea, Chiopris. Chi stava vendemmiando ha perso buona parte della produzione. Il viticoltore Fabrizio Gallo. Avremmo concluso martedì la vendemmia delle uve bianche, in particolar modo lo Chardonnay, che avevamo fuori quasi il 50% della nostra produzione. E poi avremmo lasciato ancora un po' di tempo in più a maturare le uve di Merlot. Il danno si aggira da un 50% in alcune altre zone, qua invece siamo di fronte a un danno del 100%. A chi era più avanti con i lavori, le cose sono andate meglio. Gianfranco Gallo, imprenditore agricolo. Noi avevamo ancora qualche vigneto, piccolo vigneto da raccogliere, che abbiamo raccolto prontamente a poche ore dopo la grandinata, per fortuna. Però se questo fosse arrivato prima, questo fortunale è arrivato prima, noi avremmo avuto un danno veramente, avrebbe segnato l'annata. I proiettili di ghiaccio, per oltre che i grappoli, hanno danneggiato i tralci, soprattutto i più giovani. Molte gemme sono probabilmente compromesse. Quelle sane, spogliate dalle foglie come in inverno, potrebbero germogliare in questo caldo autunno, scambiandolo per una primavera e sottrarre alle viti il nutrimento, con effetti che si scopriranno solo il prossimo anno. L'invito del presidente di Coldiretti, Martin Figel, è quello di assicurarsi contro gli eventi estremi inattesi, ma gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia, dice Condifesa, sono virtuosi. La presidente Angela Bortoluzzi. Ogni anno in regione si assicurano capitali per oltre 400 milioni di euro, dove ovviamente la fa da padrone è la vite e l'uva da vino. E su questo, su quello che un'azienda paga, spende ovviamente per l'assicurazione, si può poi godere di un contributo che circa va dal 40 al 50%. Mariano del Friuli, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Ora uno sguardo al tempo, cielo sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi e mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. A Pordenone 22 gradi e 5 decimi, a Udine 23 gradi e 5 decimi, a Gorizia 24. A Piancavallo e Sappada 17 gradi, a Forni di Sopra 18, a Tarvisio 18,5, a Tolmezzo 20 gradi. Sul Monte Lussari 13 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 15 gradi. Sulla costa a Lignano 21 gradi e 5 decimi con temperatura del mare di 22 gradi e 5 decimi, a Grado 22 gradi e temperatura del mare di 24 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Oggi cielo sereno ovunque, con venti deboli a regime di brezza, temperature oltre la norma del periodo, specialmente in montagna. Il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati. A chiederlo è la CGIL, che su Gaza ha lanciato per domani, venerdì, una giornata nazionale di mobilitazione. 4 al momento gli appuntamenti in programma in Friuli Venezia Giulia, cui hanno aderito già numerose associazioni, comitati, partiti che condividono e sostengono gli obiettivi della mobilitazione. Si partirà al mattino con il presidio indetto dalla CGIL di Gorizia all'ingresso del porto di Monfalcone dalle 11.30 alle 13.30, poi toccherà Pordenone con la manifestazione che si terrà alle 15 in piazza Risorgimento e al presidio di Udine dalle 16 in via Pracchiuso, sotto la sede della prefettura, in serata la manifestazione di Trieste che si terrà dalle 20.30 alle 21.30 in piazza Venezia lungo le rive, e già stasera due presidi si terranno in contemporanea a Trieste e Udine, rispettivamente in piazza della Borsa e in piazza San Giacomo, organizzati entrambi dal Global Movement. concordate in una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica le linee guida sia della pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, sia delle misure di safety, servizi e misure da adottare per gestire in piena sicurezza la 57esima edizione della Barcolana, in programma il prossimo 12 ottobre, in un momento particolarmente delicato dovuto alle tensioni a livello internazionale. Sentiamo in merito il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi. La priorità è sicuramente garantire un contesto che sia sicuro sia per coloro i quali sono interessati all'evento, e sono tantissime persone, sia garantire il regolare svolgimento di tutte le attività che interessano una città complessa e turistica come Trieste. In che modo verrà garantito? Verrà garantito attraverso l'implementazione di tutti quanti i servizi delle forze dell'ordine. L'implementazione vuol dire sia un incremento numerico delle risorse che vengono messe a disposizione, sia una qualificazione delle risorse, quindi con una gestione in capo a funzionari designati nel rispetto dell'ordinanza del questore, e il dispiego di tutti gli assetti, che siano degli assetti sia di gestione dell'ordine pubblico che di gestione di eventuali rischi più alti. Lei ha fatto riferimento per esempio al delicato contesto geopolitico internazionale, che chiaramente fa parte dei punti che noi abbiamo preso in considerazione ieri. Tengo anche a precisare che l'evento ha una sua particolarità, nel senso che bisogna ragionare, e questo è di competenza della Capitaneria di Porto che ha lavorato ieri con noi in prefettura, quindi la sicurezza a mare di tutte quante le imbarcazioni che partecipano alla gara e tutta la parte dell'evento che invece coinvolge la città. E in particolare il villaggio Barcolana. In primis il villaggio Barcolano, che quest'anno ha una sua peculiarità in quanto è interessato a un'area maggiore della città, credo Cavana sia interessata in maniera diversa rispetto agli altri anni, e per questo ci sono dei forti elementi di promiscuità tra la città che vive la sua vita ordinaria, le persone che sono interessate all'evento e l'evento stesso. Alla presenza della vice premier e ministra svedese dell'energia, delle imprese e dell'industria Ebba Busch, delle istituzioni locali e dei vertici industriali è stata posata la prima pietra del nuovo impianto green realizzato da Danieli per il gigante dell'acciaio svedese Saab a Luleå. Il progetto, del valore di circa 1 miliardo di euro, darà vita a uno degli impianti siderurgici più avanzati al mondo, con una capacità produttiva di 2,5 milioni di tonnellate annue di acciaio speciale e una riduzione del 7% delle emissioni totali di CO2 della Svezia, un traguardo storico nella transizione energetica europea. Il nuovo impianto sarà equipaggiato con le più avanzate tecnologie della Danieli, progettate per garantire la massima efficienza energetica e il pieno rispetto dei più rigorosi standard ambientali. Il nuovo impianto entrerà in funzione entro la fine del 2028 e raggiungerà la piena operatività nel 2029. A Trieste poco fa la cerimonia di posa della prima pietra dell'Hydrogen Hub, il nuovo impianto dedicato alla produzione di idrogeno verde che sorgerà nell'area adiacente al termovalorizzatore. Sentiamo Sebastiano Franco che si trova sul posto. Buongiorno da Via Herrera a Trieste, dove è stata posata la prima pietra del polo dell'idrogeno verde. Trieste dà così ufficialmente il via ai lavori del nuovo polo dell'idrogeno verde, un'infrastruttura strategica per accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione di trasporti e realtà produttive del territorio. Alla cerimonia di posa della prima pietra hanno partecipato il vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vania Gava e poi tutte le istituzioni del territorio. Grazie a Sebastiano Franco. E dopo i due nuovi casi di dengue registrati a Trieste e ronchi dei legionari, per limitare il diffondersi della malattia che viene trasmessa dalla zanzara, che può prelevarlo dalla persona infetta nell'arco dei primi 2 o 7 giorni, oggi una ditta incaricata inizierà le operazioni di trattamento larvicida. A Trieste, dalle 19.30, nella zona di salita di Raute, da via del Castelliere sino a via Brigata Casale, per un raggio di 200 metri, e a Ronchi, attorno alla via del Capitello. Dopo l'inaugurazione di ieri con la lettura del messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e la premiazione dell'attivista iraniana Shirin Ebadi, Oggi seconda giornata di Pordenone Legge con diversi appuntamenti e incontri in programma. Tra questi quello con Gino Cecchettin che a margine del festival ha commentato l'aggressione subita nel carcere di Verona dall'assassino della figlia Giulia. Non penso che la violenza sia la risposta a questo, ecco, ed è il messaggio che vorremmo dare noi. A margine di un gremito incontro con il pubblico di Pordenone Legge, l'Auditorium Concordia, Gino Cecchettin ha commentato la notizia dell'aggressione in carcere a Filippo Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin. Sarebbe stato colpito con un pugno da un altro detenuto, un 55enne condannato in via definitiva per omicidio, tentato omicidio, che aveva contestato lo spostamento di Turetta in quarta sezione. Ancora Gino Cecchettin. Non mi fa sentire felice il fatto che lui sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare. Sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo proprio nel senso opposto, quindi anzi dovremmo far capire alle persone che insomma quei sentimenti che portano a questo sono sbagliati da condannare. A Pordenone Cecchettin ha presentato il suo libro Cara Giulia, assieme a un volume A Giulia, che raccoglie le lettere per la giovane scritte da ragazzi e ragazze degli istituti superiori del Friuli Occidentale. Alessandra Merighi, docente dell'Istituto Flora. Sono arrivate riflessioni che forse non sarebbero giunte sul valore di una relazione in cui non ci sia chi prevarica sull'altro, e Giulia in questo continua a parlare a tutti noi. Il progetto coinvolge anche le scuole in ospedale, come spiega il direttore dell'oncologia radioterapica del CRO, Maurizio Mascarin. Il significato di non farli sentire l'ultima ruota del carro, cioè loro devono continuare a fare la scuola anche in ospedale durante un periodo di malattia, perché la scuola non è semplicemente nozioni ma è anche collegamento con gli amici, con la scuola di provenienza, e questo progetto permette appunto di raggiungere questo obiettivo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E saranno oltre 200 i protagonisti e 60 gli incontri che animeranno oggi la seconda giornata di Pordenone Legge. Tra le anteprime internazionali, grande attesa per lo scrittore egiziano Ala Al-Asfani, che per la prima volta racconta la sua ultima fatica narrativa, Ad Alessandria gli alberi camminano, appuntamento all'Istituto Vendramini alle 21, intervista di Alessandro Mezzina Lona. Dalla Francia la scrittrice Carole Martinez arriva con Dormi il tuo sonno animale alle 21 nel ridotto del Teatro Verdi, presenta Michela Fregone, lo sceneggiatore giornalista Olivier Guez in Mesopotamia, in cui si racconta la storia dell'avventuriera, archeologa, scrittrice e diplomatica Gertrude Bell. Lo sfoglierà insieme ad Alessandro Mezzena Lona nell'auditorium dell'Istituto Vendramini alle 19. Grande attesa per il romanzo d'esordio di Oscar Farinetti, La regola del silenzio, in dialogo con Elisabetta Pozzetto, al Capitolo alle 21. Si presenta poi in anteprima la raccolta postuma del poeta israeliano Hedi Leskly, Un pozzo di latte in centro città, con Alon Altaras, traduttore dell'opera di Leskly e dei grandi nomi della letteratura italiana in ebraico, e l'editore Andrea Molesini alle 17 nella Libreria della Poesia. Per i grandi incontri di attualità, l'ex diplomatico russo Alexander Baunov presenta La fine del regime, il libro che lo ha fatto dichiarare agente straniero e costretto all'esilio, alle 19 nello spazio Gabelli. Ma Pordenone Legge non è soltanto una serie di incontri con autori letterari. Tra gli eventi collaterali c'è anche un progetto in forma di gioco chiamato L'algoritmo della storia, ed è proposto dall'ITS Academy Alto Adriatico agli studenti delle scuole superiori. Sentiamo di che si tratta. Tra le varie iniziative di Pordenone Legge ce n'è una dell'ITS Academy Alto Adriatico, un istituto di alta formazione post scuola superiore che si occupa di informatica, di tecnologia dell'informazione, e che per gli studenti superiori ha preparato un gioco che è chiamato L'algoritmo della storia. E chiediamo ad Antonio Cristiano, che è docente e anche responsabile dei corsi dell'ITS Alto Adriatico, di che cosa si tratta. L'algoritmo di una storia è un gioco rigoroso in cui noi cerchiamo di innescare gli studenti di scuola superiore perché insieme collaborino per costruire appunto una storia, ma non una storia in maniera arbitraria, ma seguendo delle regole che dettiamo noi e che devono seguire. Voi date delle parole chiave? Noi diamo 6 parole chiave, vengono creati gruppi appunto da 6 studenti, ogni studente ha una parola, ogni studente deve costruire, inventare, pensare una frase, e le 6 frasi insieme devono costruire una storia. cosa c'entra questo con l'informatica, che uno pensa è fatto di codici? Beh, allora diciamo ci sono due livelli. Il primo, che è importante lavorare in team. Io potrei scrivere la porzione di codice migliore del mondo, ma se non mi leggo e non so legarla a quello che fanno gli altri, ho bucato il mio obiettivo. Il secondo è che oggi l'informatica sta scivolando su più, sempre di più verso la semantica, cioè si scrive e si chiede codice, non si progetta e non si... Questo perché l'intelligenza artificiale lo scrive il codice. L'intelligenza artificiale scrive il codice, ma io devo essere bravo a chiedere il codice e a saper scrivere e confezionare le mie domande. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un talk show per parlare di autismo agli alunni e alle alunne delle scuole di Trieste. L'evento in sala Luttazzi è stato proposto dall'associazione Progetto Riabilitazione, che si occupa e segue i bambini autistici. È la mia classe con le luci, con le decorazioni, con i banchi in ordine, con dei fiori e con il banco del maestro. Dal palco di Out in School, Ahmed racconta come ha disegnato la classe dei suoi sogni, una classe che tanti desidererebbero perché è uno spazio in cui si sta bene, ci si ascolta, ci si capisce e proprio per questo si trova sempre il modo per comunicare meglio. Si lavora sull'inclusione nelle scuole che hanno aderito al percorso proposto da Progetto Riabilitazione di Trieste, un percorso che guida alla scoperta dell'autismo e attivato in 15 istituti con 30 bambini e ragazzi seguiti. Anna Vitale, insegnante alla scuola primaria Pittoni. I bambini erano molto incuriositi dall'aspetto proprio pratico, no? Cosa faccio per aiutare, cosa faccio quando ha la crisi, come mi comporto, cosa posso fare per evitare che abbia questa crisi, come lo coinvolgo, come riesco a farlo giocare, perché succede questo, perché in quel modo... L'Italia dispone di un impianto normativo tra i più avanzati al mondo per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Eppure c'è ancora molto da fare, è stato rimarcato dal palco. Mancano le risorse e manca soprattutto la continuità di figure professionali di riferimento che affiancano gli alunni autistici nel loro percorso di crescita verso l'autosufficienza, che non si esaurisce in qualche mese o dopo un solo anno scolastico. Le criticità ci sono, ma tra i ragazzi c'è tanta curiosità e soprattutto la volontà di capire, comunicare ed entrare nel mondo di una persona autistica. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prenderà il via oggi con un'anteprima il 33° convegno del Centro Balducci dal titolo Mai Soli, un altro mondo possibile, in programma dal 18 appunto al 30 settembre. Il programma prevede 17 appuntamenti tra anteprime, il primo concorso dedicato a Pierluigi Di Piazza e l'appendice del convegno. E c'è anche spazio per la proposta di partecipazione alla marcia Perugia Assisi per la pace e la fraternità, che quest'anno avrà come titolo Imagine All the People. Gli argomenti trattati nell'arco del convegno, con tanti ospiti presenti, girano intorno al tema del convegno, Mai Soli. Si parlerà di politiche urbanistiche, di accoglienza, di guerre, migrazioni, carcere, volontariato e molto altro. Oggi l'inaugurazione della mostra Gabbie e Facce, pitture 2020-2025. Tiziano Bravi, artista, dialoga con Giorgio Ganis, architetto e curatore delle sue mostre. Intermezzi con i poeti Maurizio Benedetti, Sara Comuzzo, Massimiliano Lancerotto, Manuela Sallustio e Francesco Zorzenon. Suoni di Corrado della Libera. Alle 20.30 in Sala Petris, il presidente del Centro Balducci, Don Paolo Iannacone, ci presenta il convegno. Mai Soli è una sottolineatura importante, perché noi vediamo quanto facciamo fatica a passare da quella solitudine che è determinante per la vita della persona, perché ti aiuta a interiorizzare, a capire chi sei, dove vuoi andare, per arrivare però purtroppo tante volte all'isolamento, quindi quel passaggio all'isolamento che diventa devastante in tante categorie di persone che sono fragili, ma anche attraverso le situazioni del mondo di oggi che vediamo sotto i nostri occhi, dalle guerre alle violenze che sono perpetrate. Per questo vogliamo insistere su questo tema della solitudine che diventa isolamento. Quali saranno i primi appuntamenti? Abbiamo puntato sull'anteprima, che è quella di questa sera in Sala Petris a Giuliano, dove verrà inaugurata la mostra Gabbie e Facce dell'artista Tiziano Bravi, che insieme a Giorgio Ganis e ad altri autori e poeti, insieme anche ai suonatori, aiuteranno a vivere una serata significativa. Ma l'appuntamento anche importante è quello di domani presso il Cinema Visionario alle ore 20, dove in anteprima regionale assisteremo al documentario inchiesta Taranto Chiama, della documentarista e giornalista d'inchiesta Rosi Battaglia, che si metterà in dialogo con Flaviano Bosco proprio sul tema di quella città perfetta, zona di sacrificio, cioè la celia Ilva e gravi rischi per la salute e l'ambiente. E poi ci saranno tutta una serie di altri appuntamenti. Sì, a partire dalla serata cosiddetta inaugurale di martedì prossimo, il programma ufficiale lo si trova anche sul sito internet del Centro Balducci, www.centrobalducci.org. E siamo al basket. La Pallacanestro Trieste ha incontrato ieri pomeriggio il tifo organizzato della Curva Nord. Si è trattato di un lungo dialogo, è detto in una nota della società, che ha permesso di trovare un terreno comune dopo le vicende degli scorsi giorni che avevano portato una parte della tifoseria a decidere di non esporre più striscioni o incitare la squadra con i cori durante le partite, e che consentirà di aumentare il livello di sicurezza all'interno della struttura e avere il supporto del tifo organizzato, riconoscendone il ruolo e il valore. Oggi il debutto del terzo e ultimo atto della trilogia Inabili alla morte, L'alba dopo la fine della storia, una produzione di Associazione Mittelfest. Va in scena il testo originale indipendente scritto da Paolo Di Paolo e diretto da Giacomo Pedini. In scena ci saranno Primoz Eckhart, Francesco Migliaccio, Vudi Neri, Alberto Pirazzini, Camilla Semino Favro, Matilde Vigna. Si racconterà tra teatro e live cinema, tra verità palesi e clamorosi fake, l'entusiasmante e manipolatorio salto nel vuoto degli anni 90 fino ai 2000, alle 20 al Teatro Verdi di Gorizia. E in programma oggi ad Aquileia una lectio magistralis del professor Franco Cardini sullo stato patriarcale aquileiese. Cardini dialogherà con Angelo Floramo. I due storici medievisti condurranno gli spettatori in un viaggio che attraversa la lunga storia dello stato patriarcale di Aquileia dal 1077, anno di fondazione, fino alla sua caduta e alla conquista da parte della Repubblica di Venezia nel 1420. L'appuntamento è alle 20:30 nella Basilica. Nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità a Trieste si parla oggi del futuro della mobilità con Giacomo Feri, giovane triestino vincitore lo scorso anno del contest Mob Movimento in Rivoluzione promosso da Unipolis nella sezione Idee dal Futuro, alle 18:30 in piazza Puecher. La polizia locale sarà invece presente in Largo Bonifacio per una giornata di approfondimento dei temi legati alla sicurezza stradale rivolta ai cittadini, da quelli più piccoli agli adulti, dalle 14 alle 18. E alle 12:57 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Beers e Lara Zani, con la collaborazione tecnica di Corrado Spunton e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie della attenzione. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.